Letture di Radio 24. Il mio disordine è in questo, che ogni cosa per me è una ferita. Lo scrive la poetessa Antonia Pozzi nel suo diario attorno al 1930 e Alda Merini, in uno dei suoi versi giovanili, dice che la vita è il linciaggio delle ore. La letteratura al femminile del Novecento italiano è scritta da muse sofferenti con una strana e forte vocazione al martirio. Eppure, nel pur ridotto drappello di scrittrici della nostra modernità, non mancano esempi di scrittura femminile più ironica e meno sconfitta dalla vita. È il 2 dicembre 1938, Milano. Una giovane donna esce di casa presto, come fa tutte le mattine, per andare a insegnare. Ma se ne va dalla scuola in anticipo, 2 ore prima del previsto. A casa tornerà soltanto il giorno dopo, nell'agonia dei barbiturici ingeriti, per morirvi. Ha solo 26 anni e lascia in eredità un piccolo e nascosto patrimonio di fotografie, diari, lettere e soprattutto poesie. I genitori ne fanno stampare un'edizione privata, da distribuire agli amici in ricordo della figlia così atrocemente perduta. Qualcuno, però, si accorge di quelle poesie orfane, persino Eugenio Montale ne scrive. Ma solo negli anni Ottanta Antonia Pozzi smette di essere semplicemente una poetessa e diventa una leggenda, una santa del martirio femminile. Nel 1965 una donna di 34 anni compie la prima di una serie di coatte e migrazioni verso un paese oscuro, l'ospedale psichiatrico Paolo Pini, in termini più schietti, il manicomio di Milano. Non è una sconosciuta. Ha pubblicato dei versi che molti hanno apprezzato e lodato. Ma nella sua povera casa di Ripa di Porta Ticinese, il marito non può tenerla quando, stremata dalle difficoltà e dalla miseria e dalla bizzarria del suo carattere, dà in escandescenze. Tra un ricovero e l'altro continuerà a fare figli e a scrivere, ma la sua poesia è come contagiata e costretta ai margini della sua stessa infelicità. Poi, d'improvviso, la riscoperta. Mentre la lunga disattenzione culturale e sociale che l'ha colpita e umiliata si trasforma in una famelica attenzione, alla fine del secolo passato e all'inizio del nuovo, Merini smette di essere semplicemente una poetessa per diventare un personaggio. Inoltrandomi di seguito nel volume di 1000 pagine che Mondadori ha dedicato all'opera di Alda Merini, Il suono dell'ombra, e nell'ampia raccolta che l'editore Luca Sossella ha dedicato ai versi, agli scritti e alle foto di Antonia Pozzi, Poesia che mi guardi, mi sono sentita trasportare in una lì per lì indecifrabile, un po' urticante medesima atmosfera. Un'atmosfera nebbiosa o decisamente tenebrosa che passa da un libro all'altro, pur nelle evidenti differenze di stile e di ispirazione letteraria delle due autrici. Come del resto, fa un altro piccolo e mirabile libro, da poco pubblicato, di Anna Maria Ortese, Mistero doloroso, per i tipi di Adelphi. Queste 3 opere sembrano indicare una precisa icona femminile della sofferenza, nel rifiuto, nella marginalità, nell'incomprensione. Il mio disordine è in questo, che ogni cosa per me è una ferita. Scrive nel suo diario Antonia Pozzi e in una lettera al grande amore proibito della sua breve vita stringe precocemente i suoi nodi. È terribile essere una donna ed avere 17 anni. Anche nell'onda diluviale di parole che costituisce il corpus poetico di Alda Merini, l'espressione del dolore di essere nate è costante. Striscia sotto il trasporto amoroso, si annida nel piacere della carne, si inerpica per la passione e lo stupore del mondo, sottende la relazione con Dio. A guardare nella loro vita, ragioni di dolore ci sono e molto concrete. In casa Pozzi è la protettività perbenista e autoritaria che un padre dal dominio feudale esercita su una ragazzina troppo sensibile, ma anche una certa diffidenza verso il suo talento nella cerchia di intellettuali colti di cui fa parte. Quanto alla vita di Alda Merini, basta la tremenda sequenza dei suoi ricoveri coatti e quello che lei ne ha scritto in L'altra verità, per levare al suo dolore qualsiasi profumo metafisico e soprattutto qualsiasi legame con un'essenza femminile. Lasciando sprezzantemente alla letteratura rosa la consolazione degli happy end e un filo di speranza, questa nomenclatura del dolore ha segnato buona parte del Novecento femminile, dalla Aleramo alla De Cespedes o alla Grande Morante. Difficile trovarvi non solo l'arguzia della prosa di Dorothy Parker o le geometrie decantate della poesia di Marianne Moore, o più tardi l'humour noir di Muriel Spark. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sofferenti muse della poesia, a firma di Elisabetta Rasì, pubblicato sull'inserto domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi. Mohamed Fikri, il muratore marocchino 23enne, prima incarcerato con l'accusa di aver ucciso a Brembate la 13enne Yara e poi liberato dopo 3 giorni perché l'intercettazione che lo condannava era stata in realtà mal tradotta, è l'incolpevole origine dell'ennesima equazione straniero uguale criminale. Questa volta però la leggenda del mostro non è nata in una grande città dove non ci si conosce, ma in un piccolo paese della Bergamasca, un paese famiglia. Che l'integrazione batta il passo e anzi stia arretrando proprio dove sembrerebbe più facile conoscere l'altro e non cadere così nello stereotipo dello straniero cattivo? Sono stati loro, via i marocchini dall'Italia, padroni a casa nostra. Occhio per occhio, dente per dente. Ne abbiamo abbastanza di questa gente qui. Poche frasi, tenute a bada questa volta da un sindaco leghista che ha gettato acqua e non benzina sul fuoco dell'odio, che bastano però per capire il sentimento della nostra Italia e non solo in provincia. C'è tutta la paura e la chiusura verso un diverso, che anche se sono passati più di 40 anni dalla sua emigrazione, ancora risulta difficile sentire vicino di casa. Ed ecco che le chiacchiere ai bar e i cartelli per strada, quasi come fossero manifesti delle prossime elezioni, fanno da scenario a questa triste tragedia. Yara, una ragazzina di 13 anni che scompare nel nulla, e un 22enne di origine marocchina fermato per presunto omicidio e scarcerato. Che cosa ci sta succedendo per renderci così divisi e sicuri di noi stessi, anche se stiamo sbagliando? Invece di inorridire davanti alla violenza contro le donne, alla quale ancora oggi non si trova rimedio, ci preoccupiamo di trovare nell'altro il capo espiatorio, il cattivo, quello straniero che è più delinquente di noi e che deve essere per forza più orribile di noi. Questo ci serve per rassicurarci ancora una volta delle nostre paure, di noi, esseri umani capaci anche di malvagità. Brembate di Sopra è uno di quei tanti paesini famiglia dove ci si conosce tutti e dove non si crede che in casa la malvagità possa arrivare. Brembate è anche uno dei tanti paesini di provincia nel nord Italia che sempre più immigrati scelgono volentieri per potersi stabilire con un lavoro e la propria famiglia. È più accessibile economicamente, ma c'è un prezzo da pagare. E la famiglia straniera nella famiglia paesino difficilmente riesce a inserirsi pienamente. Ed ecco nascere i bar per soli marocchini, le vie, i negozi per soli cinesi, i quartieri e i palazzi per soli stranieri, nel disinteresse comune. Ma se nella grande metropoli puoi anche provare a mimetizzarti, le regole del paesino sono tutte particolari. Lo sa bene Ahmed, da 30 anni in Italia, che vive in un paesino nella provincia di Torino. Racconta come sia facile che la fiducia si trasformi in paura in poco tempo. Prima ero solo Ahmed, ma da qualche anno, con la paura dei musulmani, in qualche battuta sono diventato Saddam. E ho perso più di un cliente in negozio. La verità, racconta, è che la percezione degli immigrati da 30 anni a questa parte è peggiorata. Sì, è vero che ci sono più immigrati, ma sono sempre più tenuti a distanza. La condivisione e i sorrisi in realtà riguardano solo il lavoro, quello che produci come operaio o manovale. La curiosità umana di chi sei o cosa provi non interessa a nessuno. Il paese di provincia ci segnala, e non è la prima volta, come sia fragile e possa frantumarsi il concetto di integrazione. E lo dimostra la schizofrenia xenofoba che i fatti di cronaca che coinvolgono stranieri buttano addosso a questo diverso, prendendo di mira intere comunità. Nel nord c'è maggiore integrazione, è vero, ma occhio a non sgarrare di una virgola che si fa presto a passare per il diavolo, continua Ahmed. Siamo continuamente sotto esame. E quando il paese è piccolo, la gente mormora. E se ti attaccano un'etichetta, è difficile poi staccarla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Karima Mual, Quei piccoli centri dove l'integrazione arretra, pubblicato da Il Sole 24 Ore del 7 dicembre.